l'hai vista tu, la mia antenna parte dal basamento di un plinto in cemento armato per terra mio già. Non c'entra nulla Tony, però tu l'hai messa alta, di modo che lo so, non è come metterla fuori dalla finestra, che praticamente c'hai davanti il muro e ti impedisce, è libera l'antenna tua, capito? Sì, io ho soltanto di palo 6 metri, e più c'è l'antenna che altri 6 metri qualcosa, quindi alberi li ho superati, il palazzo qua a fianco l'ho superato, io sono a posto, io vedo tutto il Sassari già che sono in terra, tu figurati se mi muovo in alta l'antenna, vedo tutto il Sassari. Vabbè, poi se la puoi mettere anche sul tetto, la puoi mettere anche sul tetto, non è che nessuno te lo vieta. No, che non lo fa mettere tu Gabriele, la capisci, già me l'ha fatto spostare di 3 metri questo animale. Mio a fianco. Perché l'ha fatto? A tu, la capisci, facciamo il discorso che tu niente, ma careggiai. Se vuoi dire cosa mi ha combinato, la capisci, è mitico. Anche se mi ha malinato pure sciuccio. Allora niente, sabbia in culo. Lo evito, infatti sollevo il palo, anzi poi più là metto il tranicio, voglio usare la dita, non me la futti nulla. E se riesco a metterlo 10 metri, meglio ancora. Adesso è 6 metri, ma è palo, capito tu, a me non... E me lo fermo, c'ho, mi pare, 5 tiranti, ma ho messo anche un pecchetto fuori, con quella parte là, è perfetto il palo, dritto, dritto, a livello, la tene dritta, dritta. Da dove metto se mi muci un po' carito, lo stiro centrale, boh, ma è già buona da come antenna. Sì, sì. Insomma già, non mi riuscire in occhio, la salino, ripeti. Allora sono sotto la porta un campanello, cioè non lo so, ma non ammetto. Oppure sono amici e si è trattenuto. Si guarda, si è trattenuto, c'è una metà. Poi l'ha navigato di Bizzo, non fai niente. Ma sì. Ma la fai fatta, l'hai tu. La fai fatta, l'hai. No, non lo fa, cazzo, è incasinato già. Se la faccio la provo a fare domani sera, dai, perché adesso sono incasinato, poi dobbiamo fare anche l'olive con Roberto, cazzo mi ha casino, dai dai. E ciò, allora, domani la presto, guarda, devo fare immediatamente, devo andare da mio fratello. No, accompagnare Roberto, pardon, è finita la cura. Poi devo andare da mio fratello, patronato. Poi, no, domani piove, quindi non posso fare arriva, se no la faccio domani la stessa. Poi verso la mezzogiorno e mezza andare a prendere il vecchietto e portare all'ospedale, fare fisioterapia. E invece dopodomani è ancora più complicato, perché dopodomani bisogna fare le olive, accompagnare il vecchietto all'ospedale per 10 giorni, cioè da lunedì a venerdì, e poi fare le olive di nuovo, e almeno ci facciamo l'olio, dai. Ma le olive dove abiti tu? No, da mia sorella in campagna, siccome la campagna lì se l'ha venduta, e quindi ha detto a me, ti fai le olive, ti fai l'uzzo, tanto poi non le puoi più fare perché la casa l'ha venduta, quindi va, verso marzo-aprile se ne va via, quindi. Ecco, e quindi cosa hai messo? Reti? Dobbiamo metterle ancora, peccato che il modello di sta a casa del partero, non è colpa nostra, oh, è messo in ritardo, me l'ha detto, Adesso vabbè, ma tu è già ora di vaccinarle. Io ne ho già un litro e mezzo, ma l'altro di quello perdone, ma così buono. Ui, santo Antonio mio. Ah, comunque, già non so se te l'ho detto, ieri sono entrato in noi frequenza, e te lo confermo anche adesso, quel porcetto col Gisilli è la fine del mondo, perché sentivo il forte sapore dell'alloro, quando è quello verde c'ha più sapore, più forte. Più con i Gisilli dolci c'era un contrasto, ma era così saporito, una bomba, me lo rifaccerò sempre, me lo farò. Comunque ne ho ancora, E poi i piselli sono buoni, se sono dolci i piselli sono buoni, anche da soli sono buoni, io me li faccio con le uova, i piselli, con la minestra, me li faccio in tante maniere, i piselli hanno un buon sapore. Capo, i piselli fini primavera prendo io, già sono buoni. Avanti Antonio. Capo. Mio figlio mi stavo portando là. gli rende, no? Che... Oh, c'è una provocazione, c'è l'11 tremenda, I cani. Fai meno, sono manco americani, chi si? Non so, cani, ho fatto il tengo a fede uno di splatter. Io dai, vi devo lasciare che devo andare e c'è un appuntamento. Ci sentiamo a dopo, anzi a domani, non lo so se dopo entro. E io se ti seguo perché ho il pollo che sta cucinando e quindi non voglio che poi si brucia. Intanto lo controllo in forno. Va bene, dai, ciao Gianni, ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime, state bene, ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao, ciao, Tony, ci sentiamo, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Che avanti? E io ero Antu. Kappa. Permesso? Avanti, Robè. Però, ciao Natalia, ho acceso un attimo, sto facendo altre cose in altre frequenze, mi ha mandato un messaggio Antonio. Fammi sentire questa bestia, dai. 1, 2, 3, prova. Ma come stai uscendo, liscio o aiutato? Liscio. Con la goda. Perché, quant'è? 9.25, fissi. Andiamo a bere, dai. Ma dove sei, in che zona sei tu? Alta Noce. Ma lo vedi prima, dove abita tuo padre? Sì, sì. Ma hai messo la antenna un po' in alto allora? Sì, ho messo l'antenna sul tetto. Sì, e che antenna è? La Ringo. Cazzo, sta andando fortissimo, c'è il segnale di coso, di qualcuno attaccato, dai, senza far nome. Vai Natale. Ciao Roberto. Fai prova a parlare Natale, tu? E dimmi, 1, 2, 3. Allora, Antonio è un peluzzino più alto di te, tu Antonio è 9.25 spaccato, tu sei con i picchi 9.25, però tutti e due segnali molto molto forti, io arriverò a Santiago 6, 7, non lo so. 9.30 sei quasi. Cappa. E che radio c'hai Antonio? Il Superstar 3.600. No, va benissimo, anche bella la modulazione, è fortissima, eh. Complimenti per tutto. Io devo lasciare che sto facendo cosa al computer e non posso mollare. Ti saluto di nuovo Antonio, scusa Natalino che non mi sono trattenuto e saluto anche chiunque stesse ascoltando. Ciao ciao. Ciao Robè, ciao. Io ho 2 watt però Vabbè, io parlo di segnali, poi quello che ci avete sono cose vuote, non interferisco. Dai, di nuovo, ciao ciao. Ciao ciao, ciao, ci sentiamo. Io ci avrò 20 watt, eh? Diciamo neanche. E io è inutile che lo sa, lo ponga a minimo o a massimo. A me ma la vecchia si può rigurare, io ho preso là. E allora lo lasciava 2 watt. Tanto per Sassa ce n'è anche per i pulsi. Ehi, vabbè. Tanto, no, non mi arriva fortissimo, Roberto, penso. Che è uguale a quello di Giulio, che si può regolare e quindi lo tengo sempre a 2 watt, anche Giulio esce con 2 watt sempre. No, non c'è qua bene già. Sì, a Puglia. Antonio. secondo me l'ha già provato, la bomba. Dove è provato? A Soros, a Morro Torres, a Muros, quasi 9:20 arrivo. Carne uno. sempre usati. Non è possibile fare tutto. Deve essere proprio un scaldato, è troppo piccolo. E vediamo più grosso. Ho trovato uno in magazzino, ma proviamo un visto. Già va bene, facciamo fare passaggi lunghi. No, ma non dovrebbe mai succedere nulla. Bella forte. Andare. Ma che apparecchio stai usando? No, un bidone di radio. Non so quanto canale. Ma. Pur andava nei burbici. E questi vanno in macchina, vanno bene. Anche con la boomerang è arrivato bene. Se siamo vicini, certo, siamo anche arrivati. Per un via via. Siamo uno che si va, uno attacca dall'aria. Troppo. Certo, c'è, ho già fatto tutto. Chi è che vuole entrare? Io dice Fredino sì. Sì, di notte spera l'occhio, cazzo d'ore sui gradi. Certo, adesso che non ho cliccato, ho preso usato, via la moto andando in Dio, ui. Se non ce n'è bisogno non esco. Ah, con la moto, ui, è sempre da abbastanza molto di prezzo. Lo so, ma già rimane per me libero. Cavalli della macchina, non la puoi portare.